Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, Europa sì o no? Oggi il Regno Unito decide. Vi dico subito, vi ricordo che noi dedicheremo parecchie ore stasera per raccontare gli eventi, per ragionare su come siamo arrivati, per farvi sentire anche i suoni di una campagna che è stata aggressiva in alcuni casi, drammatica in altri momenti, una campagna anche molto legata ai suoni, ai sound e alle parole pesanti in molti casi, ai miti. E insomma, cercheremo di fare un viaggio anche in questa Brexit che comunque andranno le cose, e naturalmente lo saprete seguendo Radio 24, rappresenta inevitabilmente un punto di svolta della cultura europea e della storia dell'Unione. Ma tant'è, sentiamo questo breve contributo audio. I have to add that the British policy makers and the British voters have to know that there will be no kind of any renegotiation. We have concluded a deal with the Prime Minister. He got the maximum he could receive and we gave the maximum we could give, so there will be no kind of renegotiation, nor on the agreement we found, I think, in February, nor as far as any kind of treaty negotiation are concerned. Out is out. Out is out, dice Juncker. Dunque il concetto è piuttosto esplicito: non ci sarà più spazio per i negoziati. Cosa si riferisce Juncker? La storia stessa della partecipazione britannica nell'Unione Europea dal 73 ad oggi è una storia di negoziati. L'ultimo tentativo per mitigare le aspettative britanniche, sollevate naturalmente dal primo ministro e poi dal grande movimento pro-Brexit, era quella di dare più concessioni, era quella di ottenere appunto queste particolarità che l'Unione Europea ha spesso contestato al Regno Unito. Ecco, Juncker, dopo, come dire, tanta diplomazia, a un certo punto si è espresso, lo ha fatto alla vigilia del voto, dicendo: se andate, andate, non ci sarà altro negoziato. Ammesso che sia così, perché poi naturalmente le parole della politica devono essere adattate alle circostanze, questo è il punto in qualche modo ufficiale di partenza dell'Unione Europea. Domani mattina, in orari insolitamente appunto insoliti per l'Unione Europea, è previsto già la presenza di un gabinetto di crisi, 8 del mattino, insomma l'intero sistema è mobilitato. Il momento obiettivamente, qui possiamo dirlo, è storico. Noi lo seguiremo, vi ricordiamo gli speciali a partire dalle 21 questa sera, andremo avanti fino all'una di notte, tanti collegamenti col Regno Unito e non solo, con l'Asia, con il mondo intero che comunque vada attende notizie. E altro tema, perché poi il mondo continua a girare al di là della Brexit, oggi nel lavoro tra virgolette ordinario dell'Unione Europea è stata l'occasione per la partecipazione di Abu Mazen, quindi leader dell'autorità nazionale palestinese, alla plenaria del Parlamento Europeo. Sentiamolo. Presidente Mahmoud Abbas bei uns zu begrüßen. La sua presenza è un segnale forte del fatto che è necessario lavorare per una pace duratura tra Israele e Palestina e che questo obiettivo è ancora attuale. Così il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha accolto poco fa nella plenaria di Strasburgo il presidente dell'autorità nazionale palestinese. Le buone relazioni tra Europa e Palestina, ha detto, sono cruciali. L'Europa per la Palestina è il partner più importante nella cooperazione economica, finanziaria e umanitaria, ma un buon funzionamento della Palestina è per noi anche compito morale. Schulz ha poi ricordato come nel settembre del 2015 il Parlamento europeo si espresse per la soluzione a due stati, uno Stato di Israele che viva in sicurezza e uno Stato di Palestina indipendente, coeso e vitale. Ma per garantirla è necessario in primo luogo porre fine alla violenza. Ma'ali Sayed Martin Schulz. Dal canto suo Abu Mazen ha ringraziato le istituzioni europee per il sostegno affinché, ha detto, possiamo recuperare la nostra indipendenza e la nostra libertà e creare le basi per un regime democratico. Il popolo palestinese, ha aggiunto infine, è dalla vostra parte nella lotta al terrorismo e all'estremismo che condanniamo, ma perché si possano battere bisogna porre fine all'occupazione israeliana e creare lo Stato palestinese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E con questo è tutto, noi ci risentiamo più tardi per parlare ovviamente parecchio di Brexit, adesso è tempo di parlare invece di calcio, di sport, tutti convocati. Europa 24. in collaborazione con Euronet Plus.